In ogni mese, e anche a marzo, non mi rompete il quarzo. Alle 2 del pomeriggio suona Gigio. Tempo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Bisogno di riflettere. Ciao Gigi, sono Matteo. La tua musica mi fa sentire vicino mia sorella Valentina, che ora è una stella in mezzo al cielo. Aspetto sempre il cammino per condividere i nostri passi attraverso te. Matteo Tresenda. Gigi, la tua non è musica, ma è un linguaggio onirico, un viaggio interminabile di suoni e sensazioni. Ed è anche grazie a lei se ora mi trovo a vivere il mio cammino con il mio angelo. Simone, ti amo. Il tuo Marco. Ciao Gigi, sono Jani dalla Slovacchia. Voglio dedicare Gigi's Love a te e al tuo forum. Grazie.

ho quasi paura che si perda. Gigi D'Agostino. Adesso c'è Gigi D'Agostino. Col suo basso fa casino. Dinanzi a lui io mi inchino. Mattia da Vicenza. Se volete scrivermi. 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2. Venerdì 9 marzo 2007, ore 22:30, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca WhatsApp, Zogno, Bergamo. We'll be right back. Gigi, sono il Gulla da Torino. L'8 marzo la mia ciccina Ale ha compiuto gli anni. Dedicale una canzone per farle capire che è parte di me, il vero sogno della mia vita. Sei la guida del nostro cammino. Mary e Marco, da Poggio. Gli auguri di buon compleanno ad Andres, un fan di Gigi che ci segue dall'Argentina. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sa ad aspettare. So che il tempo è passato ed io vissuto sempre con te. oggi. Sono tre giorni che sento il cammino alle due, al lavoro, ed è come se tutto fosse strano. È come se tutto fosse strano, Aria. Sabato saremo ancora di più con te a Latina, da parte dei tuoi amici di Lariano. Sulla mano. Per Gigi D'Agostino. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulla mano. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulla mano. Aria. Per Gigi D'Agostino. Aria per Gigi D'Agostino. Officina emotiva. Aria. Domani sera, sabato 10 marzo 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca 24.000 baci. Erburattino. Latina. Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Ciao Gigi Dag, sono Franca dalla provincia di Milano e ciò che vorrei ascoltare è la canzone Paura e Nobiltà. Basta niente per creare un prepotente, tanti soldi e successo tra la gente e la paura di non possedere più niente. Questo basta a infettare la sua mente. D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Francesca di Catania, Eva da Enna, Roby di Caselle. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. This is the way that it has to be. Gigi D'Agostino.